La giornata di oggi è stato un segnale preciso anche per il futuro, a tutti coloro che volevano praticare il diritto a manifestare. Da Genova, Piero Scaramucci. È troppo quello che è successo e che sta ancora succedendo. È una scelta forte, brutale, lucida, un cambio radicale di politica che cancella alcuni cardini della democrazia. Sono arrivate a Genova 200.000 persone, una marea di persone che vogliono un mondo più giusto, più pulito, più libero, sottratto al cinico profitto delle multinazionali, gente che soffre ogni giorno gli effetti della globalizzazione liberista, gente che si ribella all'idea di vivere sulle sofferenze del terzo mondo. 200.000 persone belle e nella stragrande maggioranza profondamente pacifiche. Il diritto a manifestare è stato negato, senza divieti formali, ma nei fatti, con gelida arroganza. Questo ha un nome, Stato di Polizia. Non diritti, ma ordini, dall'alto, e disprezzo per le idee, le proposte, la democrazia. I diritti costituzionali non sono sospesi. Da oggi alcuni di questi diritti sono aboliti. Eppure dobbiamo dire che gli anti-global oggi hanno affrontato una prova del fuoco. In decine di migliaia, con fermezza, civiltà, nervi saldi, hanno affrontato e stanno affrontando in questo momento il disordine freddamente costruito. E ora sanno quanto la lotta anti-global è difficile. Più difficile di quanto si pensasse, ma tuttavia necessaria e possibile. Linea Milano.